ce ne siano altre, e alla quale proprio lo stesso Monti in settembre ha partecipato insieme con il Presidente della Repubblica Napolitano. Le accuse proprio sulla trasmissione del Presidente del Consiglio è che molti dicono così sembra che non cambi nulla, cioè non c'è un segnale di discontinuità e la trasmissione. E perché deve esserci? Non ho ben capito. Se uno dà un'intervista al Corriere della Sera, non dà un'intervista a un giornale che esiste da 150 anni, o da 120 anni, da quando? Non ho capito dove deve essere la discontinuità, voglio dire. Cioè, è la trasmissione in America, quella... In America nell'arco di 20 anni, voglio dire, i presidenti degli Stati Uniti sono andati in tutti negli stessi talk show con gli stessi conduttori. Questo sì, però lei sa anche la forza dei simboli, per esempio è la trasmissione del famoso contratto con gli italiani. E allora? E molti allora hanno detto che può sembrare, ma diciamo... Cos'è? Ma abbia pazienza, il contratto con gli italiani avrebbero fatto la fila tutti quanti per farselo firmare, perché fu un colpo giornalistico notevolissimo. Berlusconi aveva deciso di fare un'uscita mediatica e non fu facile convincerlo a farla in seconda serata invece che in prima serata o a reti unificate. E poi, per piacere, voglio dire, in America ho rivisto pochi giorni fa le immagini di Jay Leno, che è un conduttore che esattamente ha 17 anni, sì, certo, anni di Porta a Porta, davanti è entrato Obama, l'ha abbracciato e l'ha baciato, e Leno applaudiva le battute di Obama. Puoi immaginare cosa succederebbe in Italia se facessero cose di questo genere. Siamo ipocriti, siamo ideologicamente violenti, e questa è una delle anomalie del paese. Insomma, cosa è molta invidia, invidia per esempio di altri conduttori. Non posso dirlo, ma non c'è dubbio che la componente dell'invidia c'è, insomma. Ma io questa la vedo da quando sono nato, insomma. Mi ricordo che quando ho scritto il primo libro a qualcuno venne anche un colpo, dai, diciamo le cose come stanno. Fa parte della natura umana, diciamo, che in Italia c'è una certa accentuazione. No, questa non me la ricordo. Che vuol dire qualcuno venne un colpo per... Sì, ma perché quando Vespa cominciò a... dovrei fare esempi di persone che non ci sono più, insomma. Io ebbi un grande incoraggiamento quando scrissi il primo libro, ma quando dal secondo cominciai a vendere 100.000 copie, ad alcuni miei grandi, illustri colleghi, insomma, diciamo che non apprezzarono molto le cose. Qualcuno arrivò perfino a togliermi il saluto. C'è l'invidia, insomma, è l'invidia. Su questo posso capirlo, cioè se io concesso un talk show come il suo, insomma, vorrei anch'io Mario Monti, questo sì. Ecco, appunto, qual è stata la mia colpa? Di fare un invito, e la colpa del Presidente del Consiglio è stata di accettarlo. Mario Monti, ci conosciamo da tantissimi anni, è stato ospite negli anni di questa trasmissione, come tutti si è trovato bene, nel senso che a Porta a Porta nessuno può dire piaccia o non piaccia la trasmissione, poi ha mille difetti, per carità, ma nessuno potrà mai dire di essere stato imbrogliato da Porta a Porta, di aver avuto delle trappole, di aver avuto una trasmissione, appunto, nella quale è cascato dentro un fosso, e sono stati, e non a caso, voglio dire, sono venuti tutti, insomma, no? Quindi per un Berlusconi che ha rappresentato costantemente il centrodestra, ce ne sono stati quattro, non uno, che hanno rappresentato il centro-sinistra. E chi risponde? Perché le altre critiche che le fanno è: ma lei è troppo compiacente, non fa le domande cattive, non fa le domande. Io sto sempre aspettando che mi suggeriscano le domande. Oggi Libero lo fa. Le domande che non ho fatto. Ha letto già Libero i giornali? No, non ho letto. Perfetto, Libero, a pagina 5, Franco Bechis, 11 domande al Premier che la stampa bonaria non gli fa. Le suggeriamo a Bruno Vespa. Se le legga. Magari qualcuno. Vabbè, insomma, quindi lei dice: no, contesta questa idea che ci sia anche un'immagine simbolica del Presidente del Consiglio che torna alla Porta a Porta. Allora, quella è un'immagine di 10 anni fa, no? Sì. 2001. Dopo Prodi è venuto da Presidente del Consiglio, quindi mi pare che non abbia avuto nessun disagio a entrare in quello studio profanato al contratto con gli italiani. E in quello stesso studio poi si è fatto il confronto con Berlusconi. Fatto, quindi, voglio dire, se non ha avuto prova di questi problemi, perché dovrebbe averli un tecnico, un signore garbato come Mario Monti? No, vabbè, la discontinuità deve entrare nella testa di certa gente. Comunque si dice: siamo un paese violento, lei dice, non vengono sì, sì, ideologicamente violento, sì. Ideologicamente purtroppo ancora. E invece avremo molto bisogno di unità. Senta, ma Monti, mi dica allora la domanda che farà Monti, la prima. Ma non ne ho la più pallida idea ancora. Io in genere non ci penso mica il giorno prima. Certe volte penso alla prima domanda quando va in onda la sigla del programma. Quindi. In ogni caso su quel contratto dice: non solo non sono pentito, fu un grande colpo, anzi... Ma assolutamente, ma molti avrebbero... Ma ci vuole... bisogna spiegarlo. Beh, dal punto di vista mediatico fu sicuramente sì. Di che stiamo parlando, insomma, poi ognuno si assume la... Però qualcuno accusa di aver fatto nascere così la politica così show, no? Più che... Ma la politica show è nata quando Berlusconi ha fatto il suo L'Italia è il paese che amo, gennaio 1994, ha decretato la fine della Prima Repubblica e anche dei rispettabili rituali della Prima Repubblica. Ha fatto un partito in 3 mesi, ha vinto le elezioni e appena nominato, eletto segretario del PDS, Massimo D'Alema chiamò un rispettabile istituto di sondaggi, la SVG, per chiedergli di mettersi sulla stessa linea, cosa che il vecchio PC non aveva mai fatto. E hanno cominciato a fare i sondaggi e la SVG lavora dal 1994 con quello che era il PDS e tutte le sue successive evoluzioni, come lavora adesso per il Partito Democratico. Ed è lì. Quindi lì è stato, non è stato nel 2001, la rottura di Berlusconi, è stato nel 94. Due battute finali su Gad Lerner, che dice: Monti vada Vespa de gustibus. Ed è certo, voglio dire, credo che lo avrebbe ospitato volentieri anche lui, giustamente de gustibus. E infine su Benigni, l'ha visto Benigni che ha fatto una battuta cattivissima nei suoi confronti, ha detto: ieri lei ha parlato di Fiorello, domani dopo Vespa ci sarà Monti. Insomma, Monti viene sempre preceduto da un comico. Per la verità si riferiva ad un altro, quando ha detto preceduto da un comico da Vespa, secondo me si riferiva no, ma non lo so. Sì, preceduto, perché scoprico preceduto. Perché ha detto oggi c'è Fiorello e poi c'è Vespa, domani c'è Monti. No, credo, questo mi pare, va bene, io l'ho interpretato in altro modo. Allora l'avrò capita male, io non lo so. Sì, preceduto, sì. Intanto... Preceduto in quello studio. Bene, intanto in bocca al lupo. Le riascolteremo. Intanto in bocca al lupo, ovviamente. Buona serata, Bruno Vespa, grazie per essere stato con noi. Allora, noi parliamo dopo pubblicità e meteo invece della vicenda Erika De Nardo, il massacro di Novi Ligure. 10 anni dopo, Erika è libera. Si può pensare che una persona sia redenta 10 anni dopo? La pena è scontata e su questo non c'è dubbio. Poi si può discutere della pena, ma quello è, ormai è definitiva, la pena è quella, la pena è scontata. C'è anche una redenzione sociale da pagare per una ragazza nei confronti dell'opinione pubblica? Lo chiederemo a Don Antonio Mazzi, che ospita la ragazza in una comunità, e a un ex magistrato, Gerardo Colombo, tra poco. Allora, eccoci qua alle 8:37 minuti, vogliamo parlare sempre con il nostro classico tono pacato di quella che è la vicenda di cronaca che riguarda Erika De Nardo, libera da ieri, di fatto 10 anni dopo il massacro di Novi Ligure, quando Erika insieme al fidanzato Omar uccise la madre di Erika e il fratellino di Erika. È libera. Saluto Don Antonio Mazzi. Buongiorno. Ciao, Don buongiorno Antonio, eccoci voi. Qua. Ciao. Perché Erika ha passato e passa, sta passando anche questi giorni, gli ultimi mesi della sua detenzione in una delle comunità Exodus di Don Antonio. Saluto anche un ex magistrato, Gerardo Colombo. Buongiorno, dottor Colombo, eccoci qua. Buongiorno. Tra l'altro, Gerardo Colombo, proprio in questi giorni, da un mese circa, è uscito con un libro. Anche Don Antonio ha scritto un libro, adesso lo ricorderò, ma il libro di Gerardo Colombo, Il perdono responsabile, e si chiede proprio: si può educare al bene attraverso il male? Allora, intanto Don Antonio Mazzi, eccoci qua, ha fatto molto scalpore anche mediatico, adesso ci sono le foto di Erika che chiede: lasciatemi stare, voglio ricostruirmi la propria vita. È una domanda legittima a chiedersi da parte dell'opinione pubblica, insomma, Don Antonio, 10 anni sono passati solamente da questo duplice omicidio, e allora che domande dobbiamo porci? Sai, il problema è che se dovessimo badare l'opinione pubblica, dovremmo ogni volta che uno ammazza qualcun altro, dovremmo rinchiuderlo per l'eternità, va bene, perché noi abbiamo umori, perché il sangue non è acqua, perché è chiaro che è più facile che l'emozione colga e uccida anche il ragionamento, ma io credo che la legge italiana è questa, lei ha scontato le pene e secondo la legge italiana ha scontato anche bene. Pensate che finché era in carcere ha preso il diploma, di scuola superiore e si è fatta una laurea con 110 lode, bene in lettere, parlando di Socrate. Quindi non è che questa, dico, si è comportata male in carcere. Adesso però anche lei è la prima a capire che quello che ha fatto non è una cosa da dimenticare e deve assolutamente maturare, quindi ha chiesto di stare con noi il tempo debito, il tempo dovuto. Voi credo che l'abbiate sentito, no? Sì, che abbiate letto, dice, per un c'è, come tu sai, è la lettera che mi ha scritto lei qualche giorno fa, ho deciso di lavorare con te per un certo tempo perché sono contenta di continuare a maturare e ad aiutare gli altri. Ecco, io credo che anche questo faccia parte, oltre i 10 anni, dobbiamo pensare anche a questo. Quindi non, diciamo, non, il rapporto con la libertà piena è un rapporto che verrà con il tempo, non è un qualcosa che uno può guadagnare semplicemente a fine pena. Sai, la libertà piena viene quando la libertà è dentro di noi e lei certamente ancora non è libera. E quindi poi la libertà, sai, che chi di noi è libero fino in fondo? Io sto leggendo con molta attenzione il libro di Gherardo Colombo, perché tra l'altro è un tema che mi interessa da morire, e sono contento che lo affronti lei, ma certamente questa ragazza deve non solo deve maturare alcuni gesti, ma soprattutto deve capire fino a che punto può liberarsi, fino a che punto può trasformare questo suo misfatto in un'azione positiva e di attenzione agli altri, cosa non semplice. E certo, tra l'altro Gherardo Colombo appunto si pone una domanda di fondo in questo libro, Il perdono responsabile, che è quella che qualsiasi magistrato, ex magistrato, si pone sempre, cioè se il carcere serva davvero a riabilitare, insomma, oltre che a punire, perché lei, Colombo, mi conferma che ci sono due aspetti della pena, anche l'espiazione, voglio dire, no? non solo il redimere una persona. A questa domanda si dà anche una risposta, lei, Colombo? Beh, sì, io devo premettere che effettivamente la pena oggi, che appunto si chiama pena, dovrebbe avere questa duplice funzione. Tradizionalmente una specie di retribuzione del male con il male, cioè la sofferenza a chi ha inferto sofferenza, e dall'altra parte però dovrebbe anche portare verso il recupero della persona che ha commesso il reato. Ora, mentre la prima parte, che secondo me è negativa, cioè io sono convinto, quella domanda è retorica, che non si possa educare, non si possa arrivare al bene infliggendo il male, mentre questa prima parte è estremamente concreta ancora, la seconda parte, cioè quella della riabilitazione della persona, del recupero della persona, invece è praticata molto poco. È praticata molto poco. Senta, però, anche lei, di fronte all'opinione pubblica, lei che ha fatto il magistrato, quindi ha inflitto pene, di fronte all'opinione pubblica che si pone questa domanda legittima, certo, Don Antonio ci dice, dovessimo seguire l'ondata emozionale dell'opinione pubblica, ripristineremmo la pena di morte, eccetera, chiuderemo, butteremo le chiavi delle carceri di chi si macchia di delitti terribili come quello di Erika. E però non si può neanche far finta che queste domande, queste richieste da parte dell'opinione pubblica ci siano, cioè sono passati solamente, si può dire, 10 anni da questo duplice delitto efferato. Sì. Forse sono pochi, molti dicono sono pochi. Chi lo sa? Ma sono pochi sotto che profilo? In che senso? Tomazzi ha detto che sono forse pochi per il profilo. Io non conosco ovviamente le persone, conosco il caso sì, ma non conosco le persone, quindi non posso dire se sono pochi o se sono tanti. Sotto il profilo della rieducazione, forse, a sentire le parole di Don Manzi, forse sono pochi, tanto che Erika sembra rendersene conto e prosegue un percorso. Sotto il profilo invece del far, uso una parola molto cruda, del far pagare. Beh, insomma, 10 anni, prova a pensare ai 10 anni fa, della sua vita, quanto è cambiato? Dieci anni in una vita sono sicuramente un lasso di tempo, però tutto commisurato anche all'azione che uno commette. Certo. Tutto è commisurato all'idea, prima di tutto, tutto è commisurato alla nostra idea, che per carità è un'idea molto radicata, perché ce l'abbiamo praticamente da sempre, alla nostra idea che quando una persona ha fatto del male deve ricevere del male, no? Questa idea, questa idea di per sé è totalmente sbagliata, secondo lei? E secondo me è proprio sbagliata. Secondo me è proprio sbagliata. Guardi che è un'idea forte, nel senso no, infatti, che è per questo che viene applicata in tutto, non soltanto nei confronti di chi commette reati, ma addirittura nel campo dell'educazione si educa attraverso le punizioni, no? E certo. E quindi è un'idea molto molto molto radicata. Però proviamo a chiederci, io l'interrogativo che pongo è, proviamo a chiederci se da un punto di vista diciamo dei principi questa idea della punizione è in sintonia con il riconoscimento della dignità della persona. Dovremmo parlare chissà quanto, no? per entrare effettivamente nel tema. Però proviamo a porci questa domanda, primo. Secondo, proviamo a porci la domanda se è producente, se produce effettivamente. Perché io credo, proprio per l'esperienza che ho vissuto anche come giudice, che invece l'inflizione di una punizione, infliggere il male, e il carcere oggi comporta sofferenza, ma sofferenza grossa molto spesso al di là di quello che generalmente si pensa. Infliggere il male generalmente incattivisce le persone. Anche qui proviamo a fare una prova con noi stessi, no? La punizione che cosa ci porta? Ci porta a voler bene o a coltivare dei sentimenti di rivalsa, addirittura di vendetta? È un punto interessante dal quale voglio ripartire, da Don Antonio. Tra un attimo devo dare le informazioni sul traffico. Se volete anche qualche ascoltatore, 800 24 00 24. Io non voglio perdere di vista, certo molti ci dicono ma le vittime, ma quel povero bambino, ma quella povera madre che non ci sono più. Da queste domande voglio ripartire, anche capire se Erika, attraverso le parole di Don Mazzi, che la conosce, abbia elaborato un percorso suo interiore su quello che ha commesso. Tra poco. Allora, alle 8:48 minuti, vorrei chiedere, Don Antonio, ma è vera quella frase che leggiamo sui giornali che Erika le ha detto, tra l'altro, pensa, ora non sarei capace di ammazzare una mosca e 11 anni fa ho ucciso mia madre. Sì, è una frase che mi ha detto un giorno disperata, dice, pensa che io non faccio fatica ad ammazzare una mosca. E ho fatto quello che ho fatto, e quindi sta elaborando, a parte che volevo anche dirti che era minore quando Erika sì, ha fatto certo, quello che per ha fatto questo uno, per questo la era, pena è stata ed anche era sotto più... effetto di sostanze pesanti sulle quali si è poco parlato comunque. Durante il carcere ha dovuto liberarsi anche da questa dipendenza e quindi ha lavorato molto, però ti devo dire che nei 2 mesi che è con noi ha fatto molto di più che nei 10 anni che è stato in carcere, perché ha parlato con una psicologa, si è aperto tutto, ha detto a me delle cose che in carcere non ha mai detto e quindi questo mi fa pensare che il suo lavoro, che sta iniziando adesso, perché mettiamoci in testa che il vero lavoro lo sta iniziando adesso, e spero che quello che mi ha detto sia anche quello che farà. Ecco, Don Antonio, però c'è quello che la gente si chiede e che pensa anche a quel fratellino, a quella madre che non c'è più, se si vuole anche al dramma del padre che ha vissuto tutti questi anni in un rigoroso riserbo e silenzio, ma che doveva essere di fatto anche lui vittima, cioè se fosse rientrato a casa, se fosse stato a casa. Queste sono tutte supposizioni che ha raccontato il giovanotto. Sì, vabbè. Sulle quali va fatto un taglio che non finisce più, compresa quella lettera che è stata pubblicata, che è una lettera che ha mesi e mesi. 2 giorni fa è uscita una lettera di Erika, che dà del viscido molto, a Omar. Sì, anche perché tra l'altro si continua a parlare di fidanzati. Il problema rapporto era tra uno spacciatore e un utente, non era? Hai capito? Questo è il vero problema, il vero rapporto tra i due era tra spacciatore e utente. Ah, non i fidanzatini. Poi mettiamoci pure il fidanzatino, in quel discorso lì ci starà anche il fidanzatino, ma il vero rapporto era tra spacciatore e utente. Un utente che era la leader, per cui che ha sempre usato per gli affari suoi questo ragazzetto poveretto, insomma, che secondo me è il poveretto. Un'altra cosa che volevo dirvi, il padre, sì, che è l'unico che doveva perdonare, non ha mai neanche pensato al perdono, Chris l'ha amata sempre, punto, capito? È una roba, anche questo padre, straordinaria, perché questo non ha mai dubitato, non ha mai dovuto fare gesti, era solo preoccupato, solo spaventato, perché c'era dietro anche la dipendenza, c'era tutto il resto che poi un padre capisce. Allora, visto che però i nostri ascoltatori, come al solito, interpretano anche appunto il polso della gente, dell'opinione comune, io li voglio sentire, perché non abbiate paura a dire quello che pensate. Allora, Rosalba da Prato, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma dunque, senta, io ascolto sempre tutte le trasmissioni su questi eventi tragici o meno. Sì. Per me, e credo di rappresentare gran parte della popolazione degli italiani, 10 anni sono veramente troppo pochi per una mente che arriva a uccidere un fratello e una madre. Che limiti gli possano dare Don Mazza, un magistrato? Che com'è che equivalgano il dolore o questa atrocità a 10 anni, o 10 anni sono pochi o sono tanti? Abbiamo avuto degli esempi molto eclatanti, quel signore di Roma che ha riucciso, altre persone che escano e uccidano. Come fanno questi signori che sono da lei a dare questi giudizi? Cioè, come fanno a dire sì, sono molti o sono giusti? Sì, va bene, è un tema anche filosofico molto difficile, non è che sono opinioni, che poi tutto è calato in ogni singolo caso. Intanto, Rosalba, però la domanda adesso la giro a Gerardo Colombo. Prima Fabrizio da Latina, buongiorno. Buongiorno. Dica Fabrizio. A lei e ai suoi ospiti. Ora, la prima è una domanda, la seconda è un'osservazione. Sì. La domanda è, per il dottor Colombo, qual è la pena in Italia per l'omicidio volontario plurimo aggravato? Il totale degli anni e poi la risposta, praticamente, quello che penso sarà la risposta. Va bene, insomma, il concetto è, dottor Colombo, allora molti chiedono, e aggiungo anche questa domanda, lei propone quali soluzioni a questo punto, visto che dice il carcere non serve, ma risponda a Fabrizio Latino, anche a Rosalba che dice, ma come si fa a dire sono giusti, sono commisurati 10 anni a un delitto del genere? Sì, allora io credo che valga la pena di affrontare questo tema da più punti, facendo delle precisazioni. Io sono convintissimo che chi è pericoloso per gli altri deve stare da un'altra parte. Ok? Pronto? Sì. Non deve essere messo in grado di svolgere la sua pericolosità. Ma un conto è che stia da un'altra parte nel rispetto della sua dignità, un conto è che stia da un'altra parte, come succede quest'oggi, chiuso 22 ore al giorno insieme ad altre persone che non si è scelto, potendo vedere i propri familiari per soltanto per 6 ore al mese. Cioè, lei dice che venga messo in condizioni di non nuocere più, quindi magari pene alternative in comunità, eccetera, però nella sua dignità, non la dignità buttata in un pozzo insieme alla chiave. Esattamente. Dopodiché, siccome si tratta di preservare la comunità dalla pericolosità, si tratterebbe in quel caso di preservare la comunità dalla pericolosità di una persona, la persona pericolosa resta separata, resta per conto suo, diciamo, fin quando è pericolosa, no? E quindi non si sa fin quando sarà pericolosa, non si può stabilire preventivamente. Però la pena viene stabilita preventivamente, all'inizio del percorso. Esatto, la pena viene stabilita preventivamente all'inizio del percorso, per cui finita la pena, la persona, anche se è pericolosa, ritorna in società, no? Certo. Mentre invece una persona che smette di essere pericolosa durante la pena continua a scontarsi la pena fino alla fine, anche se non è più pericolosa, ok? Primo. Secondo, il codice penale prevede che l'omicidio è punito con la reclusione non inferiore a 21 anni. Sì. Dopodiché però ci sono le attenuanti, le aggravanti. Quindi, lei era anche minore in questo caso. Quindi, c'è stato l'indulto. Della minorità, c'è stato l'indulto perché lei era stata condannata a una pena maggiore, credo a 16 anni. Sì, sì, beh, 16 anni. È stata condannata a 16 anni. Il codice penale fissa un massimo e un minimo di qualsiasi pena, poi dipende da una serie di elementi, sì, comprese le aggravanti e le attenuanti, certo, e da un'altra serie di elementi che sono indicati dall'articolo 133 del codice penale. Però qua Colombo la devo fermare perché sennò sforo. Intanto leggete il libro Il perdono responsabile di Gerardo Colombo. Continuiamo la discussione su Facebook 24 mattino. Ringrazio tutti e ci troviamo domattina.